Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Oggi ho una cosa molto carina da proporvi. Voglio parlarvi di elastici e per farlo ho invitato il dottor Stefano Respizzi. Buongiorno dottor Respizzi. Buongiorno. Finalmente tornato. Buongiorno. Grazie. Direttore del Dipartimento di Riabilitazione all'Humanitas. Dottor Respizzi, agli elastici, a questa metodica, lei ha dedicato addirittura un libro. Un libro molto tecnico. Quindi mi ne rendo sa, conto. Ne sa. Grazie. Ne sa molto di questi elastici. Intanto diciamo subito che non sono quelli per tenere i capelli e no. Quando andiamo, ma sono proprio quegli elastici di diversi colori che vengono utilizzati nelle palestre, nei reparti di riabilitazione, certo. E che noi potremmo utilizzare anche a casa nostra. Io difatti quando questa metodica la stiamo studiando da un bel po' di tempo. Tutto è nato da una tesi fatta da un fisioterapista 10 anni fa circa. Poi abbiamo iniziato a fare dei corsi sull'utilizzo corretto di questa metodica e poi è venuta la voglia naturalmente di trasformare anche questi corsi in uno strumento didattico. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta, sentendoti vicino. Da che parte adesso siamo, dove il futuro è nato stamattina. Prima freno, poi discendo. Scusami se ti sto abbracciando. E pensare, dottor Respizzi, che in origine l'elastico era? Era la camera d'aria delle biciclette. È iniziato tutto negli anni 50-60, gli atleti si sono inventati uno strumento utilizzando questo elastico che è una camera d'aria della bici. Da allora in poi naturalmente sono stati fatti passi da gigante. Questa metodica è costituita da caucciù, quindi è una scelta molto legata alla caratteristica elastica vera e propria del caucciù, che è costante, che non perde le proprie caratteristiche, che ritorna sempre, che si mantiene con una risposta molto costante nel tempo. Quindi la scelta non è casuale naturalmente. Questa metodica quindi ha avuto grande spazio in ambito sia palestra che riabilitativo, perché io la definisco una palestra in casa. In fin dei conti io con degli elastici di vari colori, ben istruito, posso in qualunque zona del mondo in cui mi trovo fare degli esercizi. Quindi un set di elastici. Sì, esattamente, un set di elastici in borsa. Diversi colori, diverse lunghezze anche. Diverse lunghezze, a seconda del distretto che devo allenare. Senta, ma alleniamo il nostro muscolo dandogli forza, vero? Sì, esattamente. E questo è un po' l'efficacia del... Sfruttiamo la capacità del muscolo di aumentare la forza se allenato. In tutti i nostri muscoli, a qualunque età, se sono sollecitati, rispondono incrementando l'espressione di forza. Ma che differenza c'è tra i pesi e gli elastici? Perché entrambe queste due, possiamo dire metodiche lavorano per aumentare la forza muscolare. L'obiettivo è identico. La differenza è che l'utilizzo dei pesi, diciamo, dei manubri, dei bilancieri, di queste cose che si trovano nelle palestre, è molto efficace, ma ha una componente di rischio importante, perché sono dei gravi che io sposto, sono degli strumenti che possono cadere, che possono farmi del male, perché loro non si adattano. Se sono 10 kg, sono 10 kg evidentemente. La resistenza elastica invece ha delle caratteristiche di stimolazione della muscolatura, forse non è così efficace come un vero allenamento con pesi, che però appunto ha queste difficoltà, ma non ha nessun rischio, perché di fatto rischi non ce ne sono. Ci asseconda e ci allena, perché l'elastico si adatta alle nostre caratteristiche. L'elastico ha un buon carattere. Assolutamente sì. Vero? Se io dico prendo un peso da 10 kg, sono 10 kg e quelli rimangono. L'elastico si adatta a quello che sono in grado di fare io, che riesco ad allungarlo più o meno. Quindi se sono molto debole lo allungherò poco, se sono un atleta lo allungherò molto, però lui si adatta. Quindi Quali sono i distretti muscolari su cui l'elastico funziona meglio, in cui abbiamo i migliori risultati a livello di forza muscolare? Io direi in particolare la spalla, che sicuramente è anche un'articolazione difficile da allenare in una palestra con i pesi, perché il rischio di farsi male è molto elevato, perché la spalla è molto mobile. Sì. Sicuramente gli arti inferiori. E poi ci dà sempre un sacco di problemi. Assolutamente. Sicuramente gli arti inferiori, perché utilizzando gli elastici posso rinforzare molto la capacità del cammino e di esprimere forza con gli arti inferiori. In particolare quando faccio un'estensione agli arti inferiori, quindi mi devo alzare in piedi, diciamo. In quel caso rinforzo il tricipite, rinforzo il quadricipite, rinforzo i glutei e lo faccio contemporaneamente con un solo esercizio utilizzando un elastico che può aumentare e incrementare la resistenza che io devo vincere per fare l'esercizio. Quindi è molto interessante anche a scopo preventivo, diciamo. A scopo preventivo, quindi lei lo suggerisce alle persone che praticano sport, che frequentano la palestra oppure vanno in bici, sono maratoneti, per la prevenzione di alcuni traumi o per evitare il sovraccarico? Assolutamente sì. Se io ho una muscolatura molto tonica, ben preparata, con la capacità di esprimere forza in tempi rapidi, quindi diciamo molto elastica, la muscolatura, anche il muscolo ha la sua elasticità intrinseca, evidentemente, è molto meno facile che io mi faccia male. Quindi quando succede che c'è una lesione muscolare, quando si verifica una lesione muscolare, di solito perché il muscolo è contratto e accorciato. Sì. Quindi in questo caso invece è un esercizio che favorisce la sviluppo di forza muscolare, ma con un muscolo più elastico, più morbido. Quindi lei lo consiglia? Pensiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Sì. Profiliamo un po'. Elastici per chi va a correre, chi va a giocare a calcetto, alla persona che magari vuole recuperare un po' il tono muscolare che è andato un pochino giù, sa che con da una certa età tutto scende e quindi vogliamo recuperare anche l'estetica del muscolo. Assolutamente sì, ad esempio nelle persone che vogliono praticare il calcetto è indispensabile avere una buona muscolatura dell'arto inferiore e quindi con questo tipo di metodica io posso allenare il muscolo quadricipite, che è il muscolo più importante per calciare un pallone, ad esempio. Ma facciamo un esempio ancora più interessante. Calzante, che è più quello, elastico. La prevenzione della cadute, che c'è nelle persone in età un pochino più avanzata, no? Ma che comunque colpisce molto anche persone che non sono così anziane, perché ormai siamo una società molto sedentaria e ci muoviamo poco. Ecco, con questa metodica io posso sviluppare bene la muscolatura degli arti inferiori, tutta la muscolatura degli arti inferiori, quindi non solo il quadricipite, per fare in modo che io sia più coordinato e abbia una maggior destrezza nei movimenti quotidiani. Tipo ad esempio alzarmi da una sedia, spostarmi, salire su delle scale, insomma rincorrere un tram, insomma fare queste cose della vita quotidiana sostanzialmente. Quindi avere buoni muscoli vuol dire avere una buona qualità di vita. Questo è un po' il suo hashtag. È lo slogan. È un tallone d'Achille, il tallone d'Achille per molti di noi, ma devo dire per tutti noi è il capro espiatorio. Di che cosa sto parlando? Della cervicale. Mi alzo al mattino con i dolori, è colpa della cervicale. Mi viene mal di testa, è la cervicale. Mi sento un po' stordito, magari io soffro le vertigini, è colpa della cervicale. È possibile che tutte le colpe siano lì, in quel pezzettino? Allora oggi voglio fare chiarezza. E ho chiamato qui a Obiettivo Salute e Risveglio un grandissimo esperto che so che vi piace anche molto, il professor Luca Sconfienza, che è direttore della radiologia al Galeazzi, professore all'Università di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nico. Professore, ma allora questa cervicale che poi è lì, poverina, che fa il suo lavoro, ma tutti se la prendono con lei. È un po' il tallone d'Achille, perché molte persone avvertono proprio dolori e tensione, ma insomma sembra che tutti i nostri guai originino da lì. Intanto la localizziamo, perché parliamo di cervicale e... La cervicale è un tratto anatomico ben definito che prende il nome appunto dal tratto cervicale delle vertebre. La nostra colonna vertebrale è molto lunga e nel collo abbiamo il tratto cervicale. E il tratto cervicale è molto importante perché, se ci pensiamo, è il punto di connessione fra il capo e tutto il resto del corpo. e quindi sostiene anche il peso del capo. Ricordiamoci che nel capo abbiamo una serie di strutture importanti, l'encefalo e tutte le altre strutture, e questo è un punto di passaggio anche importante. Quando è vuota pesa. Anche quando è vuota pesa, sì, esatto. E quindi questo è un punto di passaggio fondamentale, uno snodo fondamentale del nostro corpo, dove passano sia le componenti ossee, quindi abbiamo già detto la cervicale, il tratto cervicale della colonna, con tutte le sue componenti, quindi non solo la componente ossa, ma anche quelli che chiamiamo i dischi intervertebrali, che possono dare origine a delle ernie, ma soprattutto i nervi e i muscoli. E soprattutto i nervi e i muscoli sono la cosa più importante per la genesi della cosiddetta cervicale. Cervicale, che è un termine che di per sé non vuol dire nulla, nel senso che cervicale è proprio il nome di questo tratto. Però è come cervicale, noi se dicessimo lo stomaco. Esatto. Oppure... Esatto, quindi con cervicale noi, o comunque popolarmente, si indica tutto quel corredo di sintomi che si hanno, di sintomi tensivi, dolorosi. Per essere chic e precisi, come dovremmo dire, cervicalgia. Intanto dovremmo cominciare a dire cervicalgia, però anche sotto il termine cervicalgia ci sono una serie di patologie che si nascondono. Perché, come abbiamo detto già più volte, anche in altre regioni del nostro corpo, non c'è una struttura che ci fa male, ma ce ne sono più spesso tante, quindi possono essere colpiti i nervi o i muscoli. E diciamo che, per fortuna, nel 99% dei casi, tutte le condizioni algiche, quindi dolorose a livello della colonna cervicale, sono sempre delle condizioni tranquille, quindi, e di bassa gravità, e spesso colpiscono appunto le componenti muscolari, proprio perché nella nostra vita quotidiana, per la postura, per le attività, pensi ad esempio a chi sta in macchina frequentemente, seduto alla scrivania 8 ore senza fare alcun movimento. Adesso poi c'è anche, l'avevano descritta bene, una sorta di sindrome da smartphone, il collo che si piega, diventa lungo. Esatto, quindi abbiamo tutte queste condizioni che possono portare a un'alterata, diciamo, biomeccanica e funzionalità di questa zona. E ovviamente, banalmente, come possiamo dormire male la notte col cuscino, anche una postura sbagliata, un'attività sbagliata durante la nostra giornata può dare dei problemi di questo tipo. In alcuni casi può essere molto invalidante, perché ci limita tanti movimenti durante la giornata, e noi sappiamo che anche se siamo troppo sedentari, dobbiamo essere presenti e muoverci con una certa agilità. Che cosa faccio se ho male? Siamo ai primi giorni in cui mi sento la cervicale, come la chiamiamo noi, bloccata, la zona pesante, una tensione dolorosa, metto il caldo, metto il freddo, provo a massaggiare, mi rivolgo al medico, aspetto. La cosa migliore in generale è fare dei piccoli passi, talvolta può essere molto invalidante. Spesso l'aiuto di un farmaco antinfiammatorio, sempre sotto controllo del medico di base, può dare un po' di sollievo, soprattutto nelle forme meno gravi. Il punto sempre principale da cui dobbiamo partire è la prevenzione, però. Quindi, come abbiamo già detto più volte, visto che i muscoli sono i tiranti di sostegno del nostro corpo, sono quelli che devono essere tenuti in buona funzione. Ma i muscoli del collo, si chiederanno i nostri amici che ci stanno sentendo, i muscoli del collo li possiamo allenare? Invece sì, assolutamente, anche loro, proprio perché sono quelli che tengono il capo in posizione, quindi dobbiamo allenarli anche questo. Ci sono degli esercizi specifici che con un fisioterapista possono essere allenati e tenuti in buona salute, sia per mantenerli in buona salute, sia anche nei momenti un po' più di difficoltà, un po' più di fastidio, il fisioterapista ci può aiutare moltissimo. Grazie, professor Sconfienza, per essere stato con noi, per questa chiarezza. Quindi non lamentiamoci sempre della povera cervicale. Possono essere coinvolti naturalmente anche altri gruppi muscolari. Insomma, è vero che è così importante che sorregge la nostra testa, ma cerchiamo di vedere un pochino più lungo. Ci facciamo aiutare, nel caso, dal nostro medico di famiglia, che sicuramente ci affiderà a mani esperte. Ringrazio il professor Sconfienza, anche Carmelo Lauricella, che ha un bellissimo collo. Secondo me lui di cervicale non soffre, con quella bella barba. Io vi aspetto come sempre a mezzogiorno. Buonissima giornata da Nicoletta.